Sì, il cuore, La splendida

山も山で 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，前进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏多明哥演唱的一组歌剧咏叹调。 E le piango diventi tutta e a te mia dolce Aida tornar di Napoli cinto dirti per te pugnato per te ho vinto Celeste Aida Oh, danzo per la mente. convegno non ho la e fra poco io solo lascerò mio posto di spoglia del nome altrui. Thank you.

morte lasciai, di Filippo sfidando il tremendo furore, confuso nel corteo del regio ambasciatore. Per l'amor regnerà

今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。